avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait enflu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mu. Oggi parliamo di donne. Paradossale, non ne parla più nessuno. Improvvisamente in una settimana il discorso sulle donne è evaporato. Le donne non hanno più problemi, le donne non devono più scendere in piazza, le donne non devono più parlare di donne, le donne non si sentono più indignate. In questo momento, improvvisamente, l'argomento è diventato un altro. Noi invece, cocciutamente, oggi parliamo di donne. Anzi, per rendere omaggio alla dignità della donna che si articola sul suo avere tutte le possibilità, essere osservabile sotto tutte le sfaccettature, non soltanto come un'icona di virtù, non soltanto come uno strumento di massima abiezione, non soltanto come un corpo da desiderare, non soltanto come un cervello da considerare precipuo rispetto all'aspetto estetico. La donna è tutto, la donna è presente in tutte le fattispecie umane, la donna è un elemento fondamentale, un cardine importante al funzionamento del meccanismo, anche nell'organizzazione di malavita organizzata. Parlare donne e malavita organizzata è un argomento abbastanza inconsueto. Lo si fa in certi momenti in cui la mafiologia diventa l'argomento corrente. Ci sono sempre delle spinte parallele per cui se ne parla. Questa mattina ne parliamo con leggerezza, ammesso che possa essere trattato con leggerezza questo argomento, nel senso senza ombra di pregiudizio. Le donne manifestano il loro essere donne nelle organizzazioni familiari, nelle strutture professionali legate appunto al crimine organizzato, e con particolarità e con eccezionalità data proprio dal loro essere donne. Lì sono veramente donne, è importante che loro siano donne, non è assolutamente indifferente il fatto che siano donne. E quindi, se vogliamo fare un discorso approfondito, un discorso è sollevato da ogni pregiudizio, da ogni connotazione ideologica sulla donna in generale, dobbiamo parlare anche di questo tipo di donne. Sono in realtà molti anni che le donne sono nelle gerarchie alte delle organizzazioni criminali, e la scelta in realtà è stata una scelta giusta da parte delle organizzazioni, perché hanno capito che le donne sono più interessate agli affari, meno interessate ai conflitti militari. Escono a testa alta, quasi un sorriso di sfida sulle labbra. Eccole le donne boss della camorra. Prestavano soldi a usura e poi tenevano in scacco chi era finito tra le maglie della loro rete. Lei era il capo del clan, Anna Casella, 56 anni e il vizio del gioco. I carabinieri l'hanno arrestata insieme ad altre 5 donne. Alle 6 di stamane stava giocando ancora alle slot machine. Era in sala giochi dalle 11 di ieri sera. Gestivano gli affari al posto dei mariti in carcere, queste donne. I tassi di usura fino al 240% in un anno. Quando i debitori tardavano a pagare, il clan passava le vie di fatto. Minacce e pignoramenti si portavano via. Professor Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno. Professor Mastronardi, che è stato già ospite alla nostra missione, titolare della cattedra di psicopatologia forense presso la prima facoltà di medicina all'Università di Roma Sapienza, e in particolare personalmente ha avuto un'esperienza molto intensa di conoscenza di donne legate comunque a varie organizzazioni di criminalità organizzata. Noi questa mattina, professor Vincenzo Mastronardi, vogliamo analizzare la donna, lo specifico dell'essere donna, quindi della femminilità inserita in queste organizzazioni. Come nasce innanzitutto la sua indagine e concretamente lei cosa ha fatto? Concretamente abbiamo voluto, con una mia allieva del master in scienze criminologico forensi da me diretto alla Sapienza, abbiamo voluto, per finalità di tesi di fine master, entrare in un carcere e quindi trasferirci proprio per un pool di giorni a tempo pieno in un carcere nazionale per intervistare tutte le donne. È un carcere che così ospita tutte le varie donne delle quattro associazioni associazioni criminali. Quindi mafiose dell'Ndrangheta, Camorriste, proprio anche per vedere quella che era la differenza, la sensibilità, l'umanità. Incuriositi da psichiatri, nasco psichiatra, divento criminologo dopo, quindi incuriosito appunto sia dalle motivazioni che ci possono essere a monte, sia peraltro anche dalle necessità, perché no, di uscirne fuori. È possibile uscirne? Quando ne possono uscire? Quando denunziano poi dopo i fatti di cui è processo poi dopo? Bene. C'è un punto comune rispetto a queste diversità. Sono organizzazioni, noi le chiamiamo tutte mafie da un punto di vista piuttosto superficiale, ma hanno delle loro specifiche legate al territorio, legate alla maniera di muoversi, di organizzarsi, di articolarsi, il tipo di attività che svolgono. Ecco, c'è invece un punto in comune: quando una donna ha una parte attiva, concreta, oppure è un perno fondamentale di un'organizzazione malavitosa, esiste nelle diversità invece un punto comune? Sì, c'è un minimo comune multiplo, ovvero sia il minimo comune multiplo è quello di partenza, ovvero sia la necessità di vicariare l'azione dei mariti che sono in carcere e quindi che sono affetti da quella che noi chiamiamo la sindrome della porta girevole, per cui entrano ed escono, restano pochissimo tempo fuori, rientrano, per cui mentre fino ad un certo punto si erano illuse che uscendo potessero poi dopo restare fuori per lungo tempo, avendo visto in molte strutture organizzate questo, avendo visto che poi in realtà rientrano in carcere, ecco, hanno voluto prendere, ma hanno dovuto così addossare le responsabilità, però con un distinguo tra Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta, mafia e quant'altro, ovvero sia l'elemento che mi ha colpito particolarmente è stato quello che l'Ndrangheta, per un fatto retaggio culturale della donna rispetto all'uomo, l'Ndrangheta, quindi Calabria, la donna continua ad essere down rispetto all'uomo, che è considerato il maschio che porta i pantaloni, e quindi il potere, lo scettro, deve continuare a portarlo l'uomo, contrariamente a ciò che viene per la Camorra. La Camorra, ad esempio. Nella Camorra lì invece abbiamo registrato appunto proprio rivelazioni, aperture senza nessuna remora si sono aperte a noi, anche perché abbiamo garantito assolutamente la compartecipazione che c'era in noi per un motivo di studio, un motivo di tesi, per motivi di accademici, quindi di tesi di fine master, abbiamo garantito comunque. Infatti non diciamo nemmeno quale carcere si tratta, per garantirlo esatto, ulteriormente. Esatto. Quindi nel momento in cui abbiamo voluto renderci conto del perché andavano a denunziare, abbiamo due strade, due filoni, due tipologie di donne. Quelle che la maggior parte sono diventate quindi collaboratrici di giustizia, perché vedove, orfani, madri a cui hanno ucciso i figli, che solo dopo un avvenimento traumatico come la morte violenta di un loro congiunto passano dal lutto privato alla testimonianza pubblica. Donne quindi per le quali il lutto è stato il passaggio necessario che le ha portate poi a ribellarsi almeno parzialmente alla mafia di cui prima avevano anche perché accettato. Non hanno più dopo protezioni, nel senso, quando le hanno tagliato intorno a una donna i legami con l'apparato da proteggere sono veramente sole, a qualcuno devono farla pagare a costo sanguigno di rivendicazioni di tutti i generi. Ecco, c'è una differenza in questo. La donna collaboratrice di giustizia ha in sé un senso più profondo, radicale, di doversi vendicare rispetto all'uomo quando è collaboratore di giustizia, che poi alla fine fa dei conti molto precisi su ciò che gli conviene o ciò che deve comunque ripareggiare rispetto a una sua possibile diminuzione di pena. Cioè è più cattiva la donna, quando la donna si pente e tradisce. È più istintuale. È più incontrollabile, è più emozionalmente coinvolta, quindi ha necessità di giungere fino fino in fondo. Ecco, mentre l'uomo è più calcolatore nel percorso è quello che dicevo, infatti, di collaborazioni, di giustizia o di quant'altro, è più riflessivo, quindi spesso fa marcia indietro. Allora, 800 24 00 24, il tema ve lo abbiamo introdotto in maniera sufficientemente chiara. Quello che mi aspetto da voi è delle integrazioni date dalla vostra esperienza, dall'esperienza del territorio in cui vivete, da delle sensazioni che avete vedendo, osservando, guardando. Oggi ci sono varie letture dei fenomeni criminali, tra cui gran parte, quelle più emotivamente che colpiscono, sono quelle legate alle fiction. Beh, vi siete fatti un'idea di cosa rappresenti l'essere donna in un'organizzazione criminale, soprattutto nelle zone in cui è molto limaccioso e indefinito il limite fra l'organizzazione criminale vera e propria e la società, comunque, che dovrebbe essere la società civile in cui vivono le persone. 800 24 00 24. Le sorelle del boss Leo Luca Bagarella sono tre. La prima è Antonietta, o Antonina, moglie di Totorina, maestra di scuola elementare che nel 1972 si sottrasse al provvedimento di confino e raggiunse Totorina nella latitanza. Nel 1974 i due si sposarono. Il matrimonio fu celebrato a Palermo da padre Agostino Coppola, cugino di Frank Coppola, in piena latitanza. Sto cercando don Agostino Coppola, è qui? Non c'è. Mi sa dire dov'è? A fare una messa. E quando torna? Non lo so. Signora, l'altare? Com'è che non c'è? Se lo portarono. Lo portarono dove? A fare un matrimonio. Matrimonio di chi? Così marito? Non lo so. Ninetta, vuoi tu prendere Salvatore come tuo sposo, promettendo di essergli fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e onorarlo tutti i giorni questo della è... tua vita? Un mix tra cronaca, realtà, fiction, preso dal capo dei capi, la fiction si riferisce ad Antonietta Bagarella, moglie di Totò Riina. Abbiamo al telefono Angelo Iannone. Angelo Iannone, buongiorno. Buongiorno. Angelo Iannone, altro ospite già avuto qui ai microfoni di Melog, è un ex colonnello dei Carabinieri, oggi è un saggista, è un docente al Master di Criminologia, è amministratore delegato alla JDP Corporate Solution, che è un'azienda che fornisce comunque consulenza nel campo della sicurezza informatica. Ma in particolare, come avete sentito, se ricordate le precedenti trasmissioni, al tempo in cui era colonnello dei Carabinieri, Angelo Iannone è stato a contatto diretto con queste realtà. Puoi ricordarcelo brevemente, Angelo, in che maniera e come? Beh sì, prima si parlava delle sorelle di Luca Bagarella. In effetti proprio durante, a cavallo degli anni, della fine degli anni 80, inizio anni 90, ho comandato la compagnia Carabinieri di Corleone e quello è stato un periodo estremamente intenso di contrasto a Cosa Nostra, perché vigeva la tirannia, che di questo si trattava, di Totorina, latitante già da diversi anni. Le sorelle di Leo Luca Bagarella, mi riferisco non tanto ovviamente ad Antonina, che trascorreva un po' da vittima anche, se vogliamo, la sua prigionia d'oro nella latitanza insieme al marito Totorina. Le altre due sorelle invece a loro volta erano condannate ad una sorta di nubilato forzato, perché questo garantiva meglio l'organizzazione. Quindi erano consapevoli che la loro è una sorta di attività monastica, dovevano essere consacrate comunque a mantenere un livello di sicurezza attorno alla famiglia. Esatto, perché loro avevano un ruolo molto importante. Il loro ruolo, che abbiamo scoperto durante le indagini attraverso ovviamente attività, le prime forse attività di intercettazioni ambientali in Italia, abbiamo scoperto praticamente che il loro ruolo fondamentale era quello di curare la gestione di un conto corrente intestato formalmente ad un personaggio che era emigrato per il Sud America 30 anni prima, 40 anni prima, negli anni 60. Questo conto invece era gestito appunto dalle sorelle di Leo Luca Bagarella e serviva per sostenere la latitanza di Riina. Ecco, Angelo Iannone, tu che avevi modo di avere l'aspetto pubblico, socialmente percepibile da tutti, di queste donne, e poi l'aspetto privato, avendo possibilità comunque di ascoltare le intercettazioni ambientali, ecco, qual era la differenza? Come cambiavano quando erano sole o convinte di stare sole senza che nessuno le ascoltasse? Ma queste donne sostanzialmente non avevano una vita pubblica. Queste donne passavano tutto il tempo a fare le rammentatrici, cioè il loro lavoro era fare piccoli lavori di sartoria in casa, prendersi cura della madre ormai anziana che poi è morta in quegli anni, di Luca Bagarella, che è, anche questo è un particolare molto molto toccante da raccontare. La madre di Luca Bagarella, quindi anche all'interno di una famiglia così altamente mafiosa come quella di Bagarella, ad un certo momento la si sentì esclamare, inveire contro Totorina, colpevole di averle rovinato la famiglia. Disse proprio: maledetto Totò, mi ha rovinato la famiglia. Ma Luchino in carcere. Da come ne stiamo parlando, Angelo? La mia impressione profana è che queste donne avessero proprio un ruolo quasi monastico, ma erano mai considerate come donne, quindi come femmine, come compagne, o erano semplicemente queste tutelatrici, diciamo, della sicurezza? Assolutamente, erano proprio condannate ad un ruolo. Questo è particolarmente accentuato in Cosa Nostra, in particolar modo in Cosa Nostra dei Corleonesi. Simpatico anche per certi aspetti e drammatico per altri, anche tutto ciò che riguardò in quel periodo, per esempio i preparativi del matrimonio di Luca Bagarella, che doveva sposare Vincenzina Marchese, nipote del noto capomafia Filippo Marchese. La storia poi ci avrebbe successivamente, la cronaca, raccontato che questa donna, colpevole soltanto di essere imparentata con alcuni che si sarebbero poi di lì a poco pentiti, fu praticamente vittima di lupara bianca, e i fatti dicono che la responsabilità della sparizione in primo luogo è da attribuirsi proprio al marito di Luca Bagarella. Quindi una decisione, immagino, non certo facile. Sentiamo un attimo l'ascoltatore Ranieri, primo ascoltatore che chiama. Buongiorno. Buongiorno. No, io volevo intervenire, telefono da Ragusa. Volevo dire che penso appunto nella famiglia siciliana non esista appunto che la donna non sia al corrente di quello che succede. Penso che basti anche uno sguardo per farle capire quello che avviene. E a proposito di questo, ho letto un libro molto interessante scritto da Alfio Caruso, Perché non possiamo non dirci mafiosi, che c'è in un capitolo parla proprio del ruolo della donna e della figura della donna, che in effetti è un po' quello che avviene in Sicilia, no? Noi uomini, i maschi, pensiamo che la donna sia l'angelo del focolare, ci piace immaginarla così, ma invece così non è, no? La donna ha sotto controllo tutto, magari siamo noi che non riusciamo a raggiungerla nel modo di pensare. Allora, perché Ranieri, quello che mi porterebbe a dire, ascoltando la sua testimonianza, quello che chiedevo un po' agli ascoltatori: chiamate e datemi delle informazioni in più sulle circostanze territoriali dove non necessariamente si svolgono attività di malavita organizzata, ma è sintomatico capire comunque una percezione, un ruolo è semplicemente un'accentuazione di alcune caratteristiche e poi porta a fare ragionamenti che mi stanno facendo gli esperti come Iannone e Mastronardi. Quindi non è azzardato dire che comunque già si vede nella società in embrione quello che poi diventerà professionalmente un'attività criminosa all'interno dell'organizzazione criminale? Certo, sì, ma è così, ma appunto non è appunto un discorso di mafioso o no. Cioè in Sicilia la donna ha un ruolo importante da sempre, anche mia nonna, che era una contadina, reggeva lei appunto le sorti della campagna, si occupava lei di portare il frumento piuttosto che altre cose. È chiaro, ma Vincenzo Mastronardi, sì, alla luce proprio delle sue attente osservazioni, ecco, è azzardato dire quello che ho già detto poco fa, che esistono già delle circostanze territoriali che danno un ruolo alla donna e questo ruolo viene mantenuto anche nell'attività criminosa? Guardi, è estremamente eloquente. Una donna di mafia, assolutamente non posso, non dobbiamo fare nomi, ma di grande spicco tra le donne della criminalità organizzata mafiosa siciliana. Quando alla mia domanda dico: ma scusi, ma lei ha pensato mai di cambiare, scusi l'ingenuità di questa domanda, ha mai pensato di cambiare la sua vita in qualche modo, prima o poi? Cioè, sì, in realtà quello che io desidero, che non ho mai potuto fare, è il sociale, confrontarmi con il sociale. Vorrei tanto andarmene via, forse all'estero, da qualunque altra parte, se potessi farlo, aprirmi un negozio, ma non perché debba io essere voglio dire, colei che gestisce il negozio amministrandolo. Mi piace stare con gli altri, cosa che non ho mai potuto fare, essendo stata relegata sempre in casa. Che significa questo? Leggendolo molto attentamente, possiamo senz'altro individuare la necessità di essere diversi da quello che si è stati finora, l'essere costretti ad avere un ruolo, quindi vicario, che prima o poi, bene o male, comunque ha dovuto così passare da una passività culturale ad una attività, molto di più per quanto concerne il territorio siciliano, molto meno invece per quanto riguarda il territorio calabrese. E l'Andrangheta, curiosamente, lì l'Andrangheta percentualmente parlando, proprio si è visto che presenta molte difficoltà nel dare ampi poteri alla donna. Quindi paradossalmente, se vogliamo usare dei termini impropri in questo caso, l'emancipazione della donna nell'organizzazione criminali procede a passi diversi a seconda delle zone in cui si verifica il fenomeno, a seconda del tipo di organizzazione. Devo lasciare la linea un istante alle informazioni della borsa. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer. Melog 2.0. Fiorinda Mirabile è la figlia bellissima di un boss camorrista, Mario Mirabile, ucciso in Calabria il 31 agosto del 1990. La ragazza all'epoca aveva soltanto 21 anni. Dopo la morte del padre, un omicidio strategico per gli equilibri dell'Andrangheta nella ricca provincia di Cosenza, la ragazza con sua madre furono costrette a rientrare a Salerno. In quel periodo, Fiorinda Mirabile diventa l'amante del superlatitante Pasquale Galasso e a Pasquale Galasso si rivolge per ottenere un fucile di precisione che fornisce a fedelissimi di suo padre in Calabria per far uccidere il principale mandante dell'omicidio di suo padre, Santo Carelli. Quando uccisero mio padre, il mondo mi crollò addosso perché capii che qualcuno ci aveva tradito, passando dall'altra parte. Rimasi senza nessuno e così decisi di rivolgermi a Pasquale Galasso, che era un nostro amico di famiglia. Gli chiesi un fucile con l'intenzione di vendicare mio padre. 800 24 00 24, stiamo parlando del ruolo delle donne nelle organizzazioni di malavita organizzata. È interessante farlo perché io ho una mia teoria, ma forse mi sbaglierò, che tutti gli integralismi che nascono in una società in cui è fortemente accentuato l'idea maschile della sopraffazione, della ottusa impossibilità di riconoscere diverse forme di pensiero rispetto al proprio, o di quello dell'allargamento alle proprie aree di potere, come le società in cui prevale l'integralismo religioso, le donne hanno sempre un ruolo subordinato, un ruolo accessorio, un ruolo compensativo. Beh, se le donne realmente portassero questo vento di desiderio di cambiamento che è nell'aria, probabilmente potrebbero cambiare le cose, ma forse di questo è soltanto una mia banalissima illusione. Chiedo conferma di questa mia idea sul ruolo di possibile cambiamento da parte delle donne ai miei due ospiti. In studio ho il professor Vincenzo Mastronardi, che è un titolare della cattedra di psicopatologia forense presso la prima facoltà di medicina all'Università di Roma La Sapienza, ha scritto vari libri sui serial killer, su Meredith, edito da Armando Editore, il primo è della Newton Compton, e al telefono Angelo Iannone, che è un ex colonnello dei Carabinieri, ha fatto attività molto intensa di contrasto alla mafia, oggi è un saggista, docente al Master di Criminologia e amministratore delegato teatro della JDP Corporate Solution, che è un'azienda che si occupa appunto di fornire consulenze alle aziende in campo informatico. Angelo Iannone, su questa ultima donna che abbiamo sentito, Fiorinda Mirabile, puoi darci qualche elemento in più? E poi se puoi dammi una tua idea sul fatto che in effetti la parte femminile potrebbe essere il primo importante appiglio, perché comincino a essere qualche cambiamento di ottica nelle aree a forte intensità mafiosa. Sì, può essere che mi sbagli, può essere che la mia è una visione irenica e semplicemente illusoria, non è detto che debba essere confermata. Agganciandomi immediatamente a quello che lei stava appena dicendo, sicuramente il ruolo delle donne anche in senso positivo nelle aree di mafia lo si è visto nel corso degli anni, di madri coraggio, di donne che hanno rotto il silenzio, ne abbiamo avute forse molte di più che di uomini. Ma torniamo al personaggio, Fiorinda Mirabile. Ecco, questa è una storia molto anomala, ma che si aggancia per alcuni aspetti a quello che diceva il professor Mastronardi, quindi alla sua analisi delle differenze tra le figure femminili nelle diverse organizzazioni criminali. Una precisazione mi corre l'obbligo di fare per comprendere meglio. L'Andrangheta è l'unica organizzazione di tipo mafioso che è sempre stata estremamente aperta ai nuovi affari e ha sempre mescolato affari e codice d'onore, nel senso che ha sfruttato per alcuni aspetti le regole del codice d'onore per allargare le proprie maglie anche ad altre organizzazioni. E questo ha creato anche un po' il fenomeno delle doppie affiliazioni, cioè personaggi che erano contemporaneamente affiliati all'Andrangheta e affiliati ad altre organizzazioni. Quindi da un punto di vista imprenditoriale, se vogliamo dirlo freddamente, è quella che ha più acume e senso del tempo? È senso del tempo, assolutamente, quella che ha maggior capacità di capire il nuovo e di sfruttarlo immediatamente dal punto di vista proprio del business criminale. In vero questa operazione, cominciarono quella della doppia affiliazione, fu inaugurata proprio all'inizio da Cosa Nostra, che cominciò a praticare delle affiliazioni di personaggi di vertice dell'Andrangheta che furono contemporaneamente affiliati a Cosa Nostra per legarli a sé per alcuni affari tipicamente transregionali. Ma come si spiega, Iannone, allora, che è quella, secondo quello che dice Mastronardi, che invece tiene le donne in un ruolo ancora più arcaico, subordinato e distante dagli affari di famiglia? Ma infatti questa è la stranezza, perché da una parte l'Andrangheta ha questa grande apertura verso gli affari, dall'altra però è estremamente tradizionale, è un po' la forza dell'Andrangheta, la capacità di coniugare forte radicamento territoriale e tradizionalismo ad una visione del business estremamente aperta. Oddio, io ne può essere anche che abbiano ragione loro, non vogliamo tenere posizioni di principio, che è meglio che le donne stiano fuori da certi affari, perché se poi, come dice Mastronardi, sono quelle che quando si pentono sono più spietate, più radicali, diciamo. Beh, prevengono questo rischio. Le donne sono sempre state avvertite un po' come un pericolo dalle organizzazioni mafiose, tant'è vero che è una delle ragioni per cui il mafioso, invece, buon padre di famiglia, con una vita anche privata estremamente, diciamo, di contegno, dava maggiori garanzie di affidabilità. È stata un po' la forza del potere anche di Totorina, che era tutto affari e famiglia per alcuni aspetti, appunto tale da portare con sé la moglie nella latitanza. Però, Iannone, finora nessuno di voi due mi ha toccato un aspetto che è importante, che fa parte comunque della natura femminile, l'aspetto sentimentale, passionale, sessuale. Sembra che le donne siano come dei ragionieri o delle sorveglianti degli affari di famiglia, ma questo altro aspetto è così profondo, nascosto e impalpabile, o è presente comunque nei rapporti fra uomini e donne rispetto all'attività mafiosa? Lo farei io, l'affronterei io, perché ci sei buttato a pesce. Mi sono buttato a pesce appunto proprio nelle varie interviste in carcere e mi sono reso conto che ce l'hanno un po' con la società, con le strutture mafiose, perché ha privato loro e sta privando loro quindi di una compartecipazione emozionale quale quella che loro vorrebbero, anelerebbero tanto, ecco, che però non sanno come fare a venirne fuori. Ecco che c'è un po' un cruccio, lamentano appunto non solo la compromissione di quelli che sono i rapporti affettivi, filiari, familiari, ma anche la sessualità stessa, ovviamente il famoso detto per cui i pensieri vanno a compromettere la funzionalità sessuale, chiaramente vengono o pesce non vuole più, pensieri, la frase è questa, vengono ancora più esasperati lì. Quando le cose sono nell'aria è meglio dirle esattamente questo. Poi è molto maschile la frase, dal punto di vista femminile. Quello che volevo sapere anche da Iannone, che forse ha conosciuto proprio per la sua attività appunto nell'aspetto proprio familiare e personale, quanto è importante l'aspetto passionale, l'aspetto sessuale per le donne nelle organizzazioni mafiose? Beh, la dimostrazione più emblematica, diciamo, la figura più emblematica di questo è proprio Antonino Bagarella, per alcuni aspetti, perché è arrivata al punto da raggiungere il suo amato e trascorrere con lui la latitanza. Teniamo conto che Antonia Bagarella era una donna relativamente più colta, insomma, rispetto allo standard. Comunque la monogamia è la regola imprescindibile. In Cosa Nostra soprattutto sì, ma in generale ammanta un po' tutte le organizzazioni di tipo mafioso la monogamia. E vale anche per la vedova. Anche se poi, come in tutte le organizzazioni umane, ci sono le ipocrisie, no? Quindi da una parte è visto bene il mafioso che sia monogamo, dall'altra poi magari molti mafiosi avevano l'amante, ma sicuramente Tommaso Buscetta, per esempio, veniva messo in qualche modo, veniva messa anche in discussione la sua credibilità proprio giocando sul fatto che era un femminaro, no? Quindi una persona poco affidabile secondo le regole tradizionali del codice d'onore. Cioè, per la donna, una donna una volta che rimane solo, mettiamo una vedova di un mafioso, non ha assolutamente diritto a ricrearsi una sua vita, una sua relazione, di rimanere vedova eterna a vita? Sì, sicuramente non è guardata bene una donna, almeno nelle organizzazioni di tipo tradizionale. Per esempio, la madre di Fiorinda Mirabile non si è mai più rifatta una vita, eppure è rimasta vedova relativamente giovane. Ecco, tornando al personaggio, vorrei aggiungere qualcosa. Fiorinda Mirabile che diventa l'amante di Pasquale Galasso e falleva proprio anche un po' sul rapporto d'amore per chiedere appunto quell'arma a Pasquale Galasso, perché vuole vendicare suo padre. Padre ucciso. Tant'è vero che Pasquale Galasso di questo episodio non aveva mai parlato, salvo anche perché lo considerava assolutamente secondario, anche perché lui era assolutamente contrario a praticare, diciamo, una vendetta in Calabria, perché temeva poi ripercussioni su eventuali rapporti con che erano in quel periodo abbastanza solidi con le organizzazioni che facevano a lui riferimento. Pasquale Galasso, ricordiamo che era un personaggio di vertice delle famiglie contrapposte a Raffaele Cutolo, insieme in questo momento mi sfugge l'altro. Allora facciamo così, Angelo Iannone, ci fermiamo soltanto un istante, che devo dare la linea alle informazioni del traffico. Riprendiamo proprio fra un minuto il filo del discorso, che mi sembra veramente molto interessante. A tra un attimo. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Luigia Albano, detta Donna Gina, moglie del boss Giuseppe Cirillo e zia di Fiorinda Mirabile, durante la detenzione e il successivo soggiorno obbligato del marito, assume le redini dell'organizzazione di tutta la Sibaritide. La stessa sorella, accusandola, dirà di lei: «Fu proprio mia sorella Gina a dire chiaro e tondo che non intendeva far assumere a mio marito il ruolo di mio cognato. In altri termini, mia sorella Gina, che da sempre ha avuto un carattere molto forte, voleva assumere lei la direzione di tutto, senza sottostare a chi che sia». 800 24 00 24. Velocemente, prima di riprendere il discorso con Angelo Iannone, abbiamo l'ascoltatore Marco che aspettava un po' al telefono. Marco, buongiorno. Buongiorno, io sono un avvocato che si è occupato fino a qualche anno fa di vari processi di mafia. Dove? In particolare a Palermo. Palermo. E io ricordo, quindi confermo, diciamo, l'analisi che hanno fatto questi due insigni studiosi, tutto, diciamo, il colonnello Iovine, sulla psicologia anche del pentito. Ecco, interessante, lei come avvocato ha un rapporto più diretto, più confidenziale, sì, perché lei ecco, ha qualche esempio, senza fare nomi, riferire, sì, circostanze. Penso, nomi sulla, diciamo, differenziazione anche psicologica che si deve fare nell'approccio alla collaborazione tra l'uomo e la donna. È evidente, diciamo, che ha ragione l'analista che abbiamo appena ascoltato sulla, diciamo, sulla, sul modo di essere un calcolatore per il pentito uomo rispetto alla donna, che invece ha spesso delle motivazioni molto più, diciamo. Quindi lei percepiva in nei confronti dell'ambiente, in alcune imputate con cui ha avuto contatti professionali, questa sorta di viscerale desiderio, sì, comunque, sì, di fare è legato sempre alla perdita affettiva, quindi all'uccisione del figlio, all'uccisione del marito, quindi hanno delle motivazioni molto più forti le donne rispetto agli uomini. Io mi sono calcolatore, mi ricordo una volta un pentito di cui non faccio il nome, molto accreditato, diciamo, e molto famoso, se non, per non dire famigerato, il quale diceva, praticamente descriveva la circostanza di essere stato, di essersi accorto di essere seguito da parte di alcuni soggetti che evidentemente lo cercavano per stanare lui e il fratello. Non faccio nomi, ma dico chi ha il colonnello Iovine sicuramente potrà comprendere di chi sto parlando. Iannone avrà già capito, sì. Signor Presidente, io mi ero accorto di questo, cioè sulla motivazioni, diciamo, psicologiche interiori del pentito. Io ho molti dubbi, naturalmente, per questo, diciamo, la lotta alla mafia secondo me andrebbe indirizzata, diciamo, è studiata in maniera proprio mirata, come si fa con i tumori, quindi a seconda del tipo di consorteria criminale, secondo me bisogna adattare un tipo di strategia. Per esempio, per la l'andrangheta, gli ndranghetisti sono famiglie e hanno un approccio patriarcale, allora si staccano e si isolano i maschi dalle femmine, gli uomini dalle donne, diciamo, quindi secondo me sarebbe auspicabile una legislazione proprio ad hoc, a seconda del tipo di Angelo Iannone, è d'accordo su quello che dice l'avvocato ascoltatore ci ha chiamato? Beh, su questo ci sarebbe effettivamente molto da dire, e l'avvocato ha aperto un fronte di discussione che meriterebbe una trasmissione a parte in generale. Sì, il problema è complesso. Il problema è molto complesso e mette in discussione in generale il problema della credibilità dei collaboratori di giustizia, dell'approccio che ci deve essere tra investigatori o inquirenti e collaboratori di giustizia, di una grande attenzione, perché quell'opportunismo di cui parlava anche il professor Mastronardi è per esempio un tema da tenere sempre presente quando si interroga un collaboratore di giustizia, soprattutto se di sesso maschile. E, d'altra parte, anche la Cassazione ha provato a cimentarsi un po' nell'individuare dei criteri e dei parametri di credibilità cosiddetta soggettiva, no? Intrinseca. Però che parametri che non vengono puntualmente molto spesso disattesi. Solo velocemente, casi. Angelo Iannone, avevamo sentito la scheda di Luigi Albano, è, sì, possibile su questo aggiungere qualcosa? Sì. Ecco, una cosa importante da aggiungere su Luigi Albano è proprio questa. Quando il professor Mastronardi parlava del vicariato, no? Effettivamente così, cioè Luigi Albano per esempio diviene vicaria, reggente di tutta l'organizzazione della Sibaritide invece del marito che, pur essendo salernitano, spostatosi in quella zona ai primi degli anni 70 per motivi di soggiorno obbligato, si era poi ritrovato ad essere affiliato alle organizzazioni regine che gli avevano conferito l'incarico di riorganizzare gli assetti dell'Andrangheta. Eredita un'azienda niente male, comunque. Eredita sostanzialmente un'azienda vera e propria nella provincia di Cosenza. Quindi aveva già gli strumenti professionali per gestirla, perché non è un passaggio neutrale, diciamo, che si farebbe comunque. Non immagino la stessa cosa paragonabile a una situazione di un'azienda normale che produce automobili, ad esempio. Assolutamente, lì significava veramente imporre il potere mafioso in tutta, ecco, la siccome zona. Il tempo è volato, Iannone, volevo dare la conclusione a Vincenzo Mastronardi rispetto a quanto si è detto, sta qualche puntualizzazione da fare, integrazione proprio alla luce della sua inchiesta, ma torneremo su questo tema perché vedo che ha una tale varietà di spunti che risarete senz'altro qui a parlarne presto. Mastronardi. Sì, le dico subito, la cosa estremamente interessante, ma veramente che mi ha colpito tantissimo, è stato da parte di tutte quante le intervistate, ma non solo in quell'occasione, anche in altri contesti, la possibilità realmente di venirne fuori, come se realmente ci fosse un grosso messaggio, vogliamo venirne fuori, ma non possiamo, non sappiamo come fare a farlo, abbiamo delle mete esistenziali un po' diverse. Mi ricordo uno dei dialoghi con una delle donne della criminalità organizzata, si è concluso così: la ringrazio moltissimo, mi ha fatto capire veramente tantissime cose che io stessa avevo avuto difficoltà a comprendere e ad ammettere tra me e me stessa. Quindi non è azzardato dire in conclusione questa missione che un piccolo elemento di scardinamento di un sistema che sembra in sé talmente radicato da essere inscardinabile potrebbe essere quella di incrementare l'elemento femminile che pur si muove con destrezza e con mestiere in queste organizzazioni. Mi conceda di concludere con la frase di Pericle: Dio, dacci la forza di cambiare le cose che possono essere cambiate, dacci la tolleranza per sopportare le cose che non possono essere cambiate e soprattutto dacci l'intelligenza per distinguere le une dalle altre. Grazie Vincenzo Mastronardi, grazie Angelo Iannone, ci sentiamo domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.